ho capito che voi siete qua per un atto di fede, perché ho letto ieri sera il titolo e mi sono accorto che non capivo neanche cosa volesse dire. E dal titolo effettivamente non si capisce quello di cui si parlerà. E vedrete. Ci lasciamo sorprendere. Sì. No, in verità è un po' la sintesi, assunto di un po' di studi fatti per lo più nel 2007. E nel 2007 avevo incontrato delle nuovi punti di vista riguardo quello che veniva in rete, e da lì, preso bene da questa nuova lente per analizzare la realtà, avevo fatto un po' di elaborazioni. Mi trovo più comodo comunque analizzare attacchi, difesa, personali, telematici, in questo modo, e di conseguenza lì avevo elaborato un po' più di razionalità in quello che altrimenti si parla solamente delle anomalie singole. Oh, perfettissimo. Ah, stava buttando con la chiavetta. Sì, perché c'è l'altro che senza lettore ottico. E allora c'è il primo punto della penna e mi dava errore disco. Quando mi hanno chiamato, mi hanno detto che qui in Svizzera sta per essere promossa una legge particolarmente liberticida in fatto di controllo, eccetera, eccetera. Qualcuno potrebbe sintetizzarmela o dirmi con precisione cosa, di che legge si tratta? È uscito un articolo sulla Weltwoche, dell'articolo che è un giornale della Svizzera tedesca, un po' di sinistra, una settimana, dove loro erano entrati in possesso di che la Confederazione aveva mandato ai provider svizzeri, nei quali li sollecitava a partire da agosto passato e dentro l'agosto dell'anno futuro a mettere in atto un sistema con il quale in pratica, quando l'autorità chiede, voglio vedere i dati di un signore per dettagli, di mandarli in tempo reale all'autorità, mentre in passato questo era possibile ma solamente con i dati che i provider conservavano. Diciamo, lui aveva commesso il controllo, chiedevano il mandato e ottenevano i dati degli ultimi tre mesi, che loro conservavano per tre mesi, qualcosa del genere. Ora questo è cambiato e loro potranno fornire in tempo reale, in pratica. Il rischio è che adesso mi pare che i soggetti a cui possono sorvegliare sono abbastanza specificati in maniera molto vaga. Possono essere pedofili o cose del genere, ma anche un po' che estendono questa categoria attivisti o categorie, diciamo, in qualche maniera interessante da sbagliare, insomma. Bien. E questo qua comunque è avvenuto con comunicazione provider senza che ci sia una legge specifica. Ma come mai, cioè, la stampa in Svizzera non tratta queste cose o non gli sembrava importante, non sembrava interessante? Perché motivo? Ma se il governo non fa il comunicato stampa, la stampa... Ah, non lo so. Ma è equivalente di un giornale informatico che parla di queste cose? No, un giornale che parla di argomenti svariati, di specialità, sono entrati in possesso un po' per caso, penso, gente che ha intercettato la cosa, o amici provider che avevano cose un po' piccole e li hanno pubblicate. Da lì è stato un po' segreto. No, il governo non ha mai fatto una dichiarazione pubblica di questo intento. Or dunque, i punti cardine del racconto sono per lo più tre. Il primo è ispirato all'intervento del warm-up. Il warm-up è stato gli interventi di riscaldamento fatti per ACT Meeting, quindi in varie università della zona milanese hanno fatto questi interventi chiamando dei professori piuttosto che delle personalità normalmente esterne ad ACT Meeting. Uno di questi interventi si chiamava Informazione e paura e parlava di come l'informazione può essere utilizzata come vettore per diffondere una sensazione di paura diffusa, e questa sensazione, questo stimolo, questo sentimento diffuso a questo punto dai cittadini può portare loro ad un comportamento più diverso che non farebbero in altri modi. Il fatto che Internet abbia sconvolto gli equilibri altrimenti consolidati e il tipo di effetti e modifiche che sta portando internet nella comunità, aveva trattato leggermente nel secondo punto. E il terzo invece cerca un po' di trattare i tipi di attacchi che subiscono persone o dati, comunque dal punto di vista delle libertà individuali e dei diritti umani in rete, cercando di vedere se effettivamente questi tipi di attacchi hanno un senso dal punto di vista della sicurezza o dell'obiettivo finale, o se non hanno un senso perché effettivamente sono facilmente superabili o sono solamente attacchi che hanno una durata limitata nel tempo, perché la rete, per la sua stessa capacità di evolvere e migliorarsi, può riuscire in modo rapido a superare il problema che è stato messo davanti. Questo tipo di intervento cerca di essere meno possibile tecnico, però a me non dà affatto fastidio, anzi è invitato l'interruzione in caso di incompressione. Ci sono domande? I valori di sicurezza e privacy sono valori che una persona conosce e dà un valore aggettivo, dà una quantità o una situazione soggettiva a questi valori. Quando si parla pubblicamente di sicurezza e privacy, bisogna sempre fare attenzione al fatto che si sta parlando di componenti ineffabili. Se parlo con qualcuno devo essere sicuro che sto parlando della stessa cosa. Sicurezza e privacy negli ultimi 10-20 anni hanno subito una continua mutazione di significato, è stato allargato il tipo di significato che aveva realmente, sono stati attribuiti dei significati e sottosignificati che gradualmente hanno distorto o allargato invece il significato che normalmente mantengono. Si può dire che quando si parla di sicurezza o di privacy con un interlocutore si sta rievocando tutto quello che lui associa a sicurezza, a privacy o altre cose come degrado, come decoro, come allarme, come pericolo. E quindi c'è il rischio che si parlino effettivamente di cose differenti con la stessa parola. Sicurezza storicamente sta a significare semplicemente sinecura, non ci si cura di una certa cosa, quindi è sicuro che la cosa funzioni, mentre privacy sta proprio a indicare la protezione degli argomenti che una persona può ritenere intimi piuttosto che quello che ci tiene a ritenere privato. Questo è importante come preambolo perché la richiesta di sicurezza è quella necessità che, se percepita dall'opinione pubblica, poi porta effettivamente a invitare, piuttosto che a promuovere, leggi che mettono davanti al classico paradosso: preferisco perdere un pochino della mia privacy per avere un bene migliore come la sicurezza. Questo tipo di binomio ormai è associato, e anche lo stesso garante della privacy continua a parlare della necessità che lui ha a dover dare delle possibilità a effettuare intercettazioni o analisi su internet, perché da una parte le istituzioni chiedono l'accesso per poter soddisfare le esigenze dei cittadini di non sentirsi sicuri, però la sicurezza è una percezione, cioè la sicurezza è una cosa che una persona dovrebbe valutare in modo personale. So che mi sento sicuro perché gli amici che stanno attorno a me stanno bene, piuttosto che non sento notizie che riguardano la mia sfera sociale che di problemi incombenti. Purtroppo non la percezione è sempre personale, ma si è sempre più influenzati dalle influenze esterne. Influenze esterne, quel tipo di influenze esterne che hanno più proporzionalmente, statisticamente influenza sulla massa sono i mass media. Qui vediamo un'analisi che ha fatto un professore dell'Università di Bologna dell'utilizzo crescente della parola paura. Ha fatto anche altre parole come test, degrado piuttosto che terrore, piuttosto che minaccia. Davano dei risultati sensati e i picchi sono comunque collegati, che so, si vede il primo picco che alza legato al 11 settembre, quell'altro del 2003 mi sembra che sia stato legato agli attentati a Londra piuttosto che a Madrid, non ricordo, mi sembra il 2003 a Madrid. E comunque vediamo la crescita di un termine che parte da 2000 volte all'anno fino ad arrivare a 13.000. C'è da dire che questi dati qui non sono in modo preciso una percentuale corretta, perché il numero di informazioni, di notizie che un giornale passa è aumentato. Questo, ho fatto un test con una parola neutra come esempio perché, e si è visto che aumentava del doppio delle volte. Quindi potete considerare che paura è passato da 2000 a una percentuale che arriva a 7.000, comunque sia, vuol dire 300%. Questo aumento dell'attenzione sulla paura in qualche modo ha fatto montare il problema sociale. Il problema sociale della sicurezza è nato perché c'è stato questo stimolo continuo dalla parte del bombardamento mediatico. Perché del resto un'idea come un'automobile è una questione che si può vendere. Un'automobile è facile capire che può essere venduta quella pubblicità, sia subdola, sia occulta, sia pubblicità semplice, perché effettivamente c'è uno scambio di beni materiali e si può comprendere che è una pratica del mercato consolidata. Però anche un'idea dal punto di vista della politica piuttosto che dell'accettazione da parte della massa di un certo concetto è qualcosa che potenzialmente può essere venduto, è qualcosa che ha un valore per chi la promuove e che venga accettata, di conseguenza è un valore che può essere venduto. Questo dottore inquadrato è un dottore che un tempo insegnava a bambini down a parlare. Dopodiché ha avuto un gruppo di genio e si è messo a fare il guru del marketing. Adesso uno di quei guru del marketing che passarono usato con lui costa una caterva e spiega un sacco di cose illuminanti. Quando lo intervistarono e gli chiesero: ma com'è che ha fatto cambiare così tanto lavoro? Lui disse: no, no, io mica ho cambiato lavoro. Io faccio la stessa cosa, non devo fare altro che stimolare la parte del cervello dell'umano che sta ancora discendendo dai rettili. E così lui spiegava che ha organizzato le sue nuove strategie di marketing, comunque sia. Strategie di marketing che cercano di toccare le parti più emotive, più inconsce, più anche meno percepibili che ha la persona. La persona che magari in qualche modo è consapevole, è attenta, sa di queste più problematiche, vedendo, essendo bombardata da notizie di cronaca nera, di violenza o altro, può alzare delle barriere e cercare di razionalizzare. Una persona che magari non ha questo tipo di consapevolezza oppure subisce passivamente la cosa, sia dalla sua sfera sociale attorno, come esempio la casalinga che ha le sue casalinghe amiche o la vecchietta che ha le sue amiche vecchiette, e se non è lo sciuro del bar che si beve il suo bianchino e tanto ha i suoi sciuri attorni che gli continuano a propinare quello che a loro volta hanno assorbito. Quindi una sorta di influenza sia sociale che man mano che viene inculcata porta un eco, sia costante mediatica che attira l'attenzione sempre su nuovi aspetti. Questa premessa è importante per dire che quando si sente, o meno quando io mi trovo a parlare di aspetti come diritti umani in rete, riservatezza, anonimato, privacy e libertà di parola in rete, e sento che non c'è questa percezione da parte degli altri, da un certo punto di vista vorrei incazzarmi, e mi incazzo anche, però c'è anche da in qualche modo riuscire a capirli. Il tipo di vittimismo o di pressione che hanno subito è qualcosa che può essere non facilmente comprensibile, quindi prima di dover pensare che sia un problema i diritti umani in rete che percepiamo solamente in pochi, considerate il fatto che chi non li percepisce, anche perché magari ha subito una sequenza di influenze diverse alle quali possiamo aver resistito. Appunto, crescita di esigenza di sentirsi sicuri, e l'effetto pratico nella popolazione, comunque nelle persone non esperte di sicurezza, è quello di pensare che l'unico modo per maggior sicurezza è far aumentare il livello di controllo. Da qui ci sono questi tre stereotipi che vengono toccati. Si pensa che si sacrifichi una piccola parte di un bene come la privacy a fronte di un'entità affidata come lo Stato, e di conseguenza si può ottenere un bene molto richiesto come la sicurezza. Questo qui è la matematica quasi basilare che potete incontrare quando pratichi queste cose. L'argomentazione che trovate a riguardo è sempre: se non nulla nascondere, non nulla temere. In verità questa affermazione attribuita a Hitler, anche se in verità non sta nei suoi libri, è erroneamente attribuita a Hitler, è un'implicita violazione dello Stato di diritto, perché si presuppone che tutti siano colpevoli. Invece la violazione della privacy è questo tipo di accesso che si ha solamente in rari e circoscritti casi coperti dallo Stato di diritto, per riuscire a portare avanti un tipo di risoluzione di un problema, ma non per questo deve essere fatta selettivamente, perché tanto tutti siamo onesti cittadini, poiché le persone che alla fine non hanno questi dati personali sono comunque persone. Tipi di ricatti piuttosto che seduzioni, piuttosto che intenzioni che possono aver loro, sono legati alla sfera personale, non a una certezza matematica. Un'analisi che parlava di Londra, la città più sorvegliata d'Europa, aveva scoperto che le telecamere installate avevano consentito la soluzione di un caso ogni 1000 telecamere per un intero anno. Appariva sulla sul forum di Bruce Schneier, un esperto di sicurezza che aveva più e più volte parlato contro le telecamere, contro il controllo invasivo, perché è l'effetto delle tele di perdita della privacy che c'è a medio e lungo termine è molto peggiore dell'effetto investigativo che si può avere. Il concetto che i problemi si possono risolvere solamente col controllo deriva, a mio avviso, dal fatto che lo si vede nei film, ma non c'è nessun dato scientifico sulla scienza della sicurezza che effettivamente avere un maggior controllo possa dare più sicurezza, perché il tipo di analisi dei dati che deve essere fatta, il tipo di scrematura nella grande mole di dati, è questo qui il lavoro difficile da fare l'analista. Un analista che ha questa competenza non ha bisogno di acquisire dati personali, può farlo anche da dati che può riuscire ad avere legati alla sfera sociale di una persona, al posto in cui vive, all'ambiente in cui vive, a chi conosce e a chi telefona nel tempo. Quindi non per forza il fatto che le mail siano intercettate è qualcosa che alla lunga servirà per finalità di sicurezza. L'intelligence preventiva, quando ha effetto, non è di certo perché riesce a intercettare le mail del terrorista, anche se questo è quello che viene percepito nel discorso pubblico. Per dare proprio serratezza significa essere attaccabili da chi emana le informazioni. La risposta tipica che si ha a questa argomentazione invece è il ma chi vuoi che interessi la mia vita? Sono una persona come tutte le altre, di conseguenza nessuno vorrà mai ricattarmi perché non ho niente di particolare. No, attenzione, due aspetti. Il primo, una persona può anche ritenersi non ricattabile perché può avere una percezione della sua vita meno importante di quello che immagina. In verità tutti quanti siamo intersecati in piramidi lavorative, gerarchiche, sociali, familiari, per cui il fatto che qualcuno possa ricattarti per dei motivi è comunque sempre scontato. Questo non vuol dire che bisogna vivere con la paranoia e della propria autoanalisi sui minacce e sui rischi che si possono correre. Fatto sta che dare delle informazioni riservate in mano a terzi sconosciuti è comunque un modo per esporsi a dei potenziali attacchi. E secondo, che esistono gli attacchi a target, targetizzati, quali non targetizzati. L'esempio telematico potrebbe essere: nella Cina attacca i server dei militari Stati Uniti perché vuole prendere informazioni. Questo qui è un attacco targetizzato. Anche i cinesi attaccano gli americani, hanno deciso che devono riuscire a prendere le informazioni e attaccano. Invece, delle persone sparse per il mondo attaccano tutti gli utenti, sperando che alcuni di essi abbiano dei conti su banco posta e di conseguenza bocchino al phishing. Questo è un attacco non targetizzato, si fa attacco su tutti e una parte, una percentuale, ci abboccherà. Il fatto di dare delle informazioni riservate può esporre attacchi non targetizzati, cioè attacchi non targetizzati. L'esempio pratico che è stato fatto è da un social network avevano scoperto chi in qualche modo aveva dei tipici problemi di salute. Sì, allora spam solamente quelle persone. È un tipo di attacco non targetizzato. Si prende una massa di persone e gli si propone delle cose che altrimenti non sarebbero mai state proposte. Questo è un tipo di attacco solamente pubblicitario, l'attacco informatico poi ha una relazione cattiva. Ok, quindi quello lì era per fare la premessa su come in qualche modo le persone possono richiedere maggior sicurezza, legittimano il fatto che ci sia un certo tipo di censura piuttosto che di controllo della rete, piuttosto che di limite d'accesso, perché questo tipo di precauzioni dal punto di vista sociale danno loro la sembianza, che danno loro l'impressione che sia meglio per tutti. Nicolò lì sull'aspetto di sicurezza e controllo. Internet invece negli ultimi 10 anni ha portato un po' di sconvolgimenti in uno status quo ormai consolidato, tra cui mi è venuto in mente il fatto che il panorama giornalistico è stato in qualche modo sconvolto, si è quasi dimostrato che tutti possono essere giornalisti. Indie Media è stata un'esperienza simile, poi dal punto di vista del giornalismo professionale potrebbe essere che non sia precisamente così, però nello specifico si può vedere meglio dopo. Fatto sta che molte informazioni che altrimenti non avrebbero mai raggiunto il grande pubblico, grazie a internet sono riuscite a raggiungere questo effetto, di conseguenza aumento del pluralismo pratico. Questo tipo di evento, ad esempio in Italia, ha scatenato la proposta che mi è tirata già un paio di volte, che chi ha un blog o comunque una testata con cadenza periodica debba essere soggetto alle stesse leggi dell'editoria, quindi possibile responsabilità civile e penale per quello che scrive, necessità di essere iscritto all'albo dei giornalisti, oppure che il proprietario del blog, che non è per forza chi scrive, ma l'editore equivalente, deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. Questo tipo di proposti legge è proprio significativo del fatto che una setta ormai consolidata, come quella del giornalismo legato alla pubblicazione di giornali cartacei piuttosto che alle frequenze televisive, quindi comunque un ambito ristretto, non poteva accettare che chiunque potesse avere la stessa potenziale visibilità, perché appunto questa barriera all'ingresso di poter avere accesso a frequenze televisive piuttosto che frequenze radio, piuttosto che avere accesso a macchinari che fanno stampare e quindi lavorare per un giornale di pubblicazione quotidiana, era la barriera all'ingresso che impediva a chiunque di poter divulgare e comunicare. L'effetto Beppe Grillo è un sintomo di questo: chiunque potenzialmente può comunicare. Poi stanno gli utenti che seguiranno Repubblica.it come si leggono al giornale, o che seguiranno i blogger che altrimenti non avrebbero avuto spazio. Tutti i tipi di comunicazione prima di internet erano vincolati dagli standard statali, tipicamente. Già io con la spina italiana riesco a inviare una spina elettrica a Svizzera nonostante abbia fatto 2 ore di macchina. Internet, di questa sua potenzialità, il fatto che gli standard fossero pubblici e fossero comuni è stato quello che ha consentito a qualunque parte del mondo di produrre software che in modo interoperabile potesse comunicare con gli altri. Questa forza globale ha smontato ogni genere di rapporto e di passaggio altrimenti vincolato agli stati singoli. La lobby dei teotori ha visto stroncato la loro altrimenti possibilità di controllo. C'è da sapere che nel 34 circa, quando le radio iniziavano a prendere piede, le radio venivano associate alla comunicazione pirata, e le società che al tempo difendevano il diritto d'autore, ovviamente la SIAE italiana, RIA, MPA americana o della Sony, iniziarono a attaccare le radio perché loro erano lo strumento che consentiva di diffondere i segnali altrimenti protetti dai loro diritti, e poi i diritti di sfruttamento erano protetti dai loro diritti. La radio comunque iniziò a prendere una valenza maggiore, le frequenze venivano attribuite statalmente, di conseguenza le persone che prima erano dei trasmettitori indipendenti ora dovevano essere assegnate allo Stato, di conseguenza chiusi in una quantità limitata, di conseguenza possibilmente soggetti alle tasse dei direttori. Stessa cosa che è successa con la televisione, è già nata basata su frequenze chiuse, ed è parzialmente la stessa cosa che vuole essere fatta con internet. Con internet e con il trusted computing si va a fare un'altra cosa, ma ormai quello non avverrà più. Piuttosto che internet, avendo reso l'efficacia di questa cosa, ha sconvolto anche quel sistema. Tutti i ruoli intermediari, di conseguenza chi faceva intermediario tra il consumatore e il produttore, possono potenzialmente essere stroncati perché c'è contatto diretto. Tutto questo sconvolgimento vede internet come una minaccia, di conseguenza una volta descritto come minaccia è facile fare la sioma: se quella è una minaccia, tu hai bisogno di essere sicuro per tutta questa cosa, di conseguenza adotta le nostre soluzioni descritte la slide precedente. Ma quanto è vulnerabile internet? Teoricamente è attaccabile. Internet è nata perché i militari americani, in caso di guerra atomica, vogliono riuscire comunque a comunicare e organizzarsi, quindi risolvere un'infrastruttura di base è quella di una rete così distribuita e così inattaccabile che, per quanto ci possano essere delle leggi piuttosto che dei software di censura piuttosto che altro, qualche scappatoio sarà sempre. L'infrastruttura di internet è alla base, è sempre la stessa, di conseguenza anche le proprietà di resistenza agli attacchi permangono. Solo che normalmente l'uso che ormai si fa di internet per l'utente finale non si percepisce magari questa resistenza e questa possibilità di superare gli attacchi. Quindi quello che viene fatto è cercare di applicare sanzioni piuttosto che leggi, piuttosto che modus operandi del vecchio modello organizzativo a internet, senza pensare che internet sia un sistema completamente diverso. Quello che a me avviene in Italia è questo tipo di applicazione. Molto spesso, quando c'è qualche sconvolgimento legato a delle faccende che avvengono in internet, la soluzione principale è vedere quali leggi sono state fatte prima di internet, cercare di capire se si possono applicare comunque, se non si possono applicare definire qualcosa che la estende, non cercare di lavorare qualcosa su internet considerando quali sono invece i suoi termini di ampiezza. Anche la mia sensazione è che non si sia ancora capito con precisione l'entità dello sconvolgimento che può portare a internet. Questo qui è il secondo pezzo, se vogliamo, della presentazione, in cui si tratta in modo quasi teorico cosa può ambire una rete distribuita. Dopodiché si passerà alla parte più tecnica. Fatto sta che quello che mi sconvolse 3 anni fa fu trovare uno studio del RAND. Il RAND è un'agenzia di analisti distribuiti sul mondo che normalmente fanno analisi per il governo degli Stati Uniti o per in Italia. Aveva fatto questa analisi per l'US Navy, l'Accademia Navale, secondo di razionalizzare i tipi di problemi che sarebbero derivati dalla diffusione di internet nel mondo. Il titolo era The Advent of Net War, l'avvento della guerra di rete, e se non avesse avuto un titolo così affascinante non l'avrei mai incontrato. Li tolto il PDF. Loro partivano da un'analisi antropologica addirittura e si sono chiesti: ma quando è che nella storia dell'umanità ci sono stati i maggiori tipi di cambiamento? Quello che hanno capito questi analisti è che i maggiori e più grossi cambiamenti non sono avvenuti quando Marco Polo è andato in India, o quando Cristoforo Colombo è andato in America, o quando i cristiani bruciavano gli eretici, ma quando c'era un cambio, un'evoluzione, una crescita dell'organizzazione sociale, quando quindi il modo con cui le persone si organizzavano cambiava. Partono dal Paleolitico dicendo: un tempo si organizzavano in tribù e quindi c'era una chiusura, una dipendenza familiare, una limitatezza. Il cambio di organizzazione sociale che è seguito dopo era quello dell'impero romano. L'impero romano, di conseguenza, gerarchia piramidale, che è riuscita a colonizzare per la prima volta un impero grande come l'Europa. La Chiesa romana, stessa forma gerarchica, stessa cosa, ancora più adesso, avendo colonizzato, avendo elementi di questa piramide in tutto il mondo. Di conseguenza, il primo tipo di evoluzione sociale è stato possibile quando passiamo al terzo. Il terzo era il mercato, libero mercato, di conseguenza cellule indipendenti che cercano di superare le altre cellule che competono con loro per riuscire a dare meglio materiale piuttosto che riuscire a avere più introiti. Quello che il momento in cui stiamo vivendo adesso è una miscela di queste tre cose. Queste tre esperienze si possono paragonare a delle esperienze in qualunque campo della scienza o umanistica. Hanno risolto i problemi del passato, hanno dato nuove possibilità, sono state integrate. Quello che noi viviamo adesso è una società molto gerarchica in cui stiamo all'interno di molte piramidi, siamo ai piedi di alcune piramidi legate allo Stato, piuttosto che siamo parte di alcune piramidi legate al posto in cui lavoriamo, e quindi si può pensare che la civiltà organizzata fino agli anni 80 era così, piramide molto gerarchica. Cos'è che ha fatto cambiare, ha fatto passare la comunità umana in queste tre fasi? Il fatto che il numero di contatti potesse aumentare. Quando hanno iniziato a usare una lingua franca come il latino, allora le parti altrimenti tribali si sono potute unire. Quando si è potuta avere un sistema di commercio, una rete commerciale stabilita, allora si sono potuti iniziare a fare degli scambi che non erano più vincolati localmente, ma anche transazioni a lunga distanza, e quindi iniziare a creare un impero mercantile che consolidasse e mutasse la società. Il numero di contatti è quello che, in qualche modo, quando riusciva a aumentare, dava la possibilità di accedere a questa nuova forma organizzativa. Quello che loro spiegavano è: con internet, una rete distribuita, tutti gli umani, tutti gli elementi possono avere un contatto con qualunque altro elemento, ed è uno stadio nuovo. Questo stadio nuovo da loro era analizzato come la forma di organizzazione della società a rete distribuita, e dovrebbe essere una cosa molto più efficiente, forte, resistente delle organizzazioni precedenti, anche perché il loro tipo di analisi vertiva, siccome erano militari, su quanto sono attaccabili queste organizzazioni. Quindi che analizzavano le tribù, o piuttosto che i gruppi chiusi sono attaccabili in questo modo, delle gerarchie che sono attaccabili in altri modi, quindi attaccando i vertici piuttosto che attaccando le comunicazioni verso i vertici, il mercato attaccabile in altri modi, e lo analizzavano come dei militari analizzano delle loro cose. Quello che comunque arrivavano a sintetizzare è che la rete distribuita è questa forma di organizzazione sociale estremamente più forte, più dinamica, che in modo più rapido riesce ad adattarsi a un problema, riesce a reinventarsi quando ha un problema grave. E questo tipo di considerazioni è lo stesso avvenimento che vedevo avvenire in internet. Cioè, quello che potevo vedere come degli eventi in cui dei software, piuttosto che delle reti, piuttosto che delle comunità venivano attaccate, nel tempo di un anno dopo si riusciva a vedere che con le stesse teorie spiegate a queste quadrant le comunità piuttosto che gli utenti piuttosto che i software riuscivano a riorganizzarsi per superare questo problema. Quindi analizzando tutti i tipi di attacchi, difese ai diritti umani piuttosto che ai computer, con questo punto di vista sono riuscito a trarre delle considerazioni più comode e più razionali. Tutto bene fino adesso? State impazzendo? No. Attacchi di difesa contro misure, adesso qui la parte più certo, che dicevi che internet è una rete di questo tipo, è una delle più difficilmente attaccabili. Sì. Però per esempio il nuovo modello di legge, cioè se ci tolgono il contatto fra noi e internet, è lì l'anello debole. Se beh, mettono un controllo su chi distribuisce internet sull'ultimo anello, questo è da vedere. Ci passerò bene, considera che però il controllo come intercettazione è controllo passivo, quindi tu hai comunque internet, solo che in modo passivo quello che tu fai viene registrato. Questo comunque dà vita a te due possibili scappatoie, anzi tre possibili scappatoie. Uno, quello che tu fai è una cosa che è così rapida, così nuova, che loro non possono ancora capirlo, che analizzano. L'altro, hai utilizzato del software che hai scritto tu con un tuo amico e solamente due potete decifrarlo. Due bis, utilizzi un software di cifratura convenzionale, di conseguenza viene letto però non posso decifrarlo. Il terzo invece è o riesci a accedere in altri modi, quindi tu riesci a anonimizzarti, come esempio vai su una rete wireless aperta e c'è un bar in cui apparentemente 300 utenti si collegano in tutte 24 ore. È evidente che è un'anomalia assurda, è evidente che il proprietario del bar non sarà per questo motivo imputato di quello che è successo da nome di questi 300, però è una cosa da considerare. I computer fanno quello che il computer dice o quello che l'utente dice? Il computer fa quello che il computer dice. Se io tronizzo un computer e dopo lo uso come hop d'uscita, quello che sto facendo appare a nome di un altro. Quindi anche l'attribuzione, responsabilità personale, quello che viene sul computer, è una cosa che non c'è. Si può intuitivamente pensare che sia scontata nelle indagini standard, sì, la cosa è riconducibile perché comunque non si basa su intercettazione visto il dato colpevole, si basa su indagini che guardano cosa ha fatto le persone davvero, e i dati informatici sono solamente degli indizi, quasi neanche delle prove in sede giudiziale, e di conseguenza non c'è questa attribuzione diretta utente effetto informatico, cioè traffico informatico, anche se reti dell'animato si basano su queste cose. Quindi quando pensi ad un controllo passivo, pensa che è solamente un piccolo ostacolo. In verità l'unico vero ostacolo grande è quello del fatto di 28 internet. A questo punto quello lì è il fatto che a te venga precluso l'accesso alla rete distribuita che ti consente di poterti informare completamente e fare la tua vita democratica, perché riesci a ottenere le tue informazioni in modo scevro da disinformazione, piuttosto che riesci a comunicare in modo personale e riservato senza sapere che tu sei intercettato al telefono in altri modi. La limitazione di internet, quella lì, è vero attacco. Scusate, cosa dicevi prima, che la vedevi un po' come terza categoria internet, che era libera, che molto distribuita, non attaccabile, eccetera eccetera, però intorno ad oggi si è evoluta soprattutto a livello di provider, di fornitori di accesso a internet, in maniera che quella che tu definivi come seconda categoria nel mercato eccetera eccetera quasi ha preso il controllo della rete a livello di infrastruttura eccetera eccetera. Sì, la rete in qualche modo, la rete è distribuita, cioè perché distribuita si può dire che è decentralizzata. Distribuzione invece solamente quando ogni singolo utente si collega a ogni altro. Se pensi invece alla rete internet con i cavi IP, come sono sparsi per il globo, allora è decentralizzata. I provider sono comunque centri di potere. Questo è vero. Il fatto che il mercato sia stata la forza che ha stimolato la diffusione di internet è vero. Però da come problema il fatto che chi fornisce il servizio, cioè chi fornisce connettività, non rispetta le leggi. Rispetta le leggi del posto, ma rispetta le leggi del mercato, quindi potrebbe essere anche che fa delle cose contro gli utenti perché gli conviene. Non è uno Stato che ha fatto una rete statale come potrebbe essere la vecchia SIP italiana, è una telecom privata ed è una Vodafone privata che fanno quello che gli serve loro per la strategia di business. Quindi da questo punto di vista è vero. Cioè dire che per riuscire a ottenere la vera distribuzione, quindi il contatto diretto con gli utenti, non è che tu ce l'hai di default con il tuo computer con Windows 95. È possibile, come come dicevo sulla slide in cui dicevo internet non è attaccabile, è possibile che tu abbia questa, queste feature, questi benefit, perché l'infrastruttura di internet te lo permette, però il modo con cui internet si sta diffondendo non è così. Si sta diffondendo questo concetto di usare Google al posto di un bookmark, il giorno che Google non ci sarà più tu non avrai più i tuoi siti, perché non usi più bookmark ma vai su Google e scrivi il nome del sito, quindi il primo link clicchi. Piuttosto che sta diffondendo l'utilizzo di Gmail gratuito, potrebbe essere che Gmail diventa pagamento e tutti quelli che hanno una Gmail gratuita hanno proprio la mail, ipotizzando. Quindi il fatto che la cultura che sta diffondendo e i software che stanno diffondendo non consentano una distribuzione completa è vero, ma perché i software che stanno diffondendo non sempre sono quelli più legati a quello che vogliono fare gli utenti o alla comunità, ma sono più legati al business. Quindi non aspettarti che Microsoft faccia un sistema di file sharing anonimo, però Tor, Mute, FreeNode, FreeNet, scusa, sono sistemi sviluppati dalla comunità che invece servono alla comunità di utenti. Quindi c'è proprio da distinguere il tipo di cultura internet che viene diffuso da chi con internet ci vive e cultura internet da chi viene diffuso da chi ha capito che internet è un bene per tutti e quindi fa anche software che sono mirati a questo successo. Il primo esempio che faccio fare, anche se è un po' ormai obsoleto, è quello citando Napster. Napster è stato il primo sistema di file sharing, era nel 99 e la comunità di utenti che faceva file sharing, il target dell'attacco era questa cosa qui, non si voleva più che file sharing avvenisse. Cosa c'era di nuovo? Già in passato c'era la condivisione di materiale protetto, i miei amici mi copiavano le cassettine piuttosto che mi masterizzavano il CD, nulla di strano. Quello che ha fatto Napster è stato portare la distribuzione, cioè non più lo scambio era vincolato ai contatti che avevo in modo diretto, non più i miei amici potevano darmi le cose o gli amici dei miei amici, ma era chiunque altro. Quindi la possibilità di trovare quello che stavi cercando, la velocità con la quale lo avevi, era una forza nuova, altrimenti che non si era mai realizzata prima. Per questo motivo ha sconvolto chi altrimenti poteva cercare di contenere la pirateria, perché era una forza nuova, una forza nuova delle macchine. Il tipo di attacco che ho subito è stato che l'anello debole della catena organizzativa di Napster, quindi i server centrali di Napster, potessero essere attaccati. Hanno fatto pressioni legali e di conseguenza Napster ha iniziato gradualmente a censurare quello che condivideva, dopodiché a chiudersi perché era fallito. Le contromisure sono di non prevedere anelli deboli. Napster era il primo esempio di rete peer-to-peer, utilizzava questa forma qui, tutti i client su quelli neri si collegavano al server centrale di Napster, che è quello rosso, chiedevano a lui dove stavano i file, il server gli rispondeva dicendogli guarda i file che tu stai cercando ce li ha questo, quest'altro, e Napster iniziava a scaricarseli da i peer, quindi i link che vedete sono solamente i link di richiesta, poi i peer, gli anelli neri, i punti neri si collegavano con tutti loro per scaricarsi i file. Però c'è un punto debole della catena, il server centrale. Siccome il server centrale era legato, purtroppo si deve perdere già a metà parte. Siccome il server centrale era vincolato statalmente, era intestato alle persone, i modi, piuttosto che era solamente un computer, quindi anche se fosse stato messo su un'isoletta delle Cayman con i satelliti, quindi non attaccabile dal punto di vista legale, era pur sempre qualcosa di attaccabile dal punto di vista telematico. Se dopo due mesi non poteva venire la pressione legale, poteva avvenire denial of service che buttavano giù il server centrale di Napster. Quindi il fatto che ci sia un elemento centrale fa in modo che l'attacco più possibile ti sia portato a quell'elemento, perché massimo sforzo successo, cioè minor sforzo, quello non serve per bucarlo, successo assoluto. Quello che è successo dopo è che l'esperienza a quel punto delle forme delle reti è migliorata, non più avendo quindi un centro unico di potere che potrà essere censurato, utilizzato da chi voleva intercettare gli utenti piuttosto che altro, ma sistemi distribuiti. Emule è il primo che mi è venuto in mente, in verità anche Shareaza piuttosto che altre reti di file sharing hanno questa caratteristica. Di conseguenza tanti server, se anche uno viene attaccato, come è successo per la rete Emule, che dopo un po' di anni è stato avere server gradualmente attaccati, ne cadevano 5-6, c'erano comunque sempre un'altra quantità che rimaneva affidata, quindi la rete poteva continuare a vivere. BitTorrent invece utilizza un sistema simile, se non fosse che diventano parte della rete dal punto di vista di management e organizzativo anche noi stessi, i tracker stessi che sono quelli indicati con il puntino verde, il puntino viola, e poi i blu sono invece i server web. Quello che dico lì, il peer-to-peer è un'associazione pubblica, nato da questa esperienza, le tecnologie che sono seguite hanno il blu. Aspetta, una frase sbagliata. Vabbè, comunque le tecnologie che sono seguite hanno evitato di riproporre lo stesso errore, fino a che qualcuno, come esempio con The Part Bay, aveva la certezza in qualche modo legale e il coraggio di voler entrare in questo tipo di reti con un sito di riferimento. La forza di The Part Bay è stata quella di avere un supporto legale e sociale e di community molto forte, altrimenti rischiavano di riproporre lo stesso errore proposto con Napster: un server solo, pressione legale, un server solo, il server crolla. In verità, per quanto la rete fosse indipendente, l'accesso che gli utenti hanno alla rete BitTorrent è tramite il download torrent, quindi c'è comunque un punto d'accesso che, se volete, può essere precluso o può essere censurato o bloccato. È stato un errore che hanno commesso consapevolmente, ma perché potevano in qualche modo assicurarsi un certo tipo di resistenza. Però, come si vede negli ultimi periodi, anche questa resistenza sta finendo. E ora passiamo all'altra parte, quella di crittografia e intercettazioni. Target d'attacco, le comunicazioni internet. Si può dire che quello che mi avete chiesto o il mio detrito era questo: le comunicazioni internet recuperate da telefonate vengono considerate del materiale che potrebbe avere delle valenze di indagini, in conseguenza viene controllato. Poi il fatto che viene controllato in modo totale è ancora peggio, perché a meno delle telefonate c'è un tipo di riservatezza e attenzione maggiore. Cosa c'è di nuovo però in questa esecuzione? Che se prima la rete telefonica, ad esempio, era statale, di conseguenza ci poteva essere idealmente questa sorta di fiducia tra il cittadino e lo Stato, che c'è lo Stato è parte del cittadino e di conseguenza posso fidarmi. Allora delegava questo Stato a se stesso questo potere di infrangere la riservatezza, e lo Stato lo faceva solamente nel modo più limitato possibile. Ora invece i dati transitano su privati, come indicavi il fatto che questa organizzazione mercantile ha stabilito le rotte provider che consentono di distribuire internet. Quindi stamano loro il dato, il fatto che il tuo traffico transiti su tre provider vuol dire che tu potenzialmente hai tre soggetti che per motivi loro potrebbero anche analizzare il tuo traffico. Conta che in Inghilterra succedeva che gli utenti di un certo provider, adesso mi sfugge il nome, erano soggetti automaticamente a profilazione del traffico per fini digitali, e poi il provider poteva iniettare banner all'interno della loro navigazione dopo che aveva profilato il traffico. Spunto informatico, uscita questa cosa, è stata bloccata per fortuna entro poco, però da Inghilterra si è visto questo dato. E quindi il fatto che le leggi, o meglio il credo che segue un provider, sia un credo commerciale e non lo Stato che segue comunque la Costituzione, è di per sé il problema che va tenuto in considerazione primaria. Quello che hai contro non è l'entità che a quale tu a volte dai la possibilità, o puoi scendere a compromesso e dargli la possibilità di controllarti per tutta la sicurezza. L'entità che ti può controllarti è un privato. Inoltre è un privato di tutto il mondo, nel senso che se tu comunichi con Taiwan o con Giappone, il numero di intermediari che con cui transiti non è dalla Svizzera a Tokyo, ma sono altri intermediari statali, e tu, il tuo traffico è soggetto alle leggi del singolo Stato. Quindi se si deve comunicare con qualche paese del Medio Oriente piuttosto che nella Cina, si deve considerare che il nostro traffico è soggetto alle leggi che possono avere in questi stati a bassa democrazia. Anche stati alta democrazia, come ad esempio, che so, l'America, dovete considerare che il Patriot Act è questo atto promulgato 20 giorni dopo il 1 settembre, in cui si diceva: se c'è un solo sospetto di possibile terrorismo, che vuol dire tutto e nulla, allora si può controllare quel cazzo che vogliamo fino alle mutande. E dovete considerare che il traffico di tutto il mondo va per buona parte verso Google, Microsoft.com, Yahoo.com, Facebook.com, Twitter.com, questi collettori e imbuti di traffico che vanno in America, hanno sì una loro thermal service, hanno sì il loro motto don't be evil, però sono all'interno di uno Stato che potenzialmente può controllarti. Quindi se soggetti non solo legge lo Stato sorgente, Svizzera o Italia, ma anche dello Stato di destinazione e degli Stati intermediari, perché il traffico passa di lì. Contromisura, comunicare in modo che i dati trasmessi non siano comprensibili a nessuno, eccetto il legittimo destinatario. Questo qui era l'esempio appunto del fatto che il numero di transiti, quindi il numero di reti che un pacchetto, una connessione viaggia, transita per riuscire a raggiungere il destinatario, non è lineare, non è come una telefonata diretta, una telefonata magari. Per esempio lì ho preso come spunto Voghera, e il link che passerà dalla casa dell'utente andrà verso la sede del suo terminatore, che sia Infostrada, Wind o Vodafone o Telecom locale, da lì si sposterà a chi ha tirato la rete fisica, quindi probabilmente Telecom con le sue vecchie reti. Dalla sua rete Telecom passerà per un trunk ospedale, uno di quei cavi CDN grossi che vanno a sud di Milano, dove c'è il mix italiano. Se deve andare verso Lugano, si tratta di una rotta svizzera. Per passare la rotta svizzera c'è bisogno di andare a Ginevra. Per riuscire a raggiungere Ginevra, a Milano deve passare da un provider che c'è a Bergamo, di conseguenza in numerose reti, con dentro da sistemista precario fino a gente che fa consulenze e lavora su apparati di rete. Ci sono macchinari in cui il traffico transita in chiaro e può essere intercettato e salvato con un comando di un sistema operativo libero. Ho fatto questa prova una volta, avevo detto a una ragazza su MSN che era così e lei non ci credeva. Allora le ho indicato un sito wireshark.org, download del primo link, esegui questo eseguibile, fai avvia o escono dei pacchetti, fai stop, tasto destro, ricostruzione dei flussi TCP e vedi le mail che stanno transitando sulla rete della sua specifica. La possibilità di effettuare intercettazioni è quasi automatica per chiunque sappia che i dati transitano in tante reti e possono essere raccolti come una cartolina può essere letta dal postino, per stesso tipo di divisione passiva. Per questo motivo io considero che sia un dovere morale, se voglio comunicare delle cose riservate o delle cose anche che per lato potrebbero essere riservate, quindi lo stesso scrupolo che ci potrei mettere a parlare a bassa voce quando sto con qualcuno in posto affollato, dovrei impiegarlo in ambito telematico. Questo qui con Visual Route era un esempio di un tragitto che va verso Google, mi sembra, in cui tutti gli hop, cioè questi numeri di cose che partono da 8 e da 22, in realtà partono da 1, solo i primi 8 sono stati cancellati, sono tutti dei salti che la nostra connessione sta commettendo, così da poco a poco avvicinarsi geograficamente al posto destinatario. In questo caso sono 22, molti sono della stessa azienda, che si vedono che questi qui probabilmente sono della stessa azienda, perché gli indizi IP sono più o meno gli stessi. Il fatto sta che si passa per almeno diversi paesi, diverse legislazioni, diverse centrali in cui quello che usa dai nostri dati ci si augura non succede. Per riuscire a vedere che tipo di percorso percorre la vostra connessione, quello che dovete fare è scaricarvi un programma come Visual Route, oppure usare quelli default che sono su Linux o Microsoft Express Route o su Windows Tracert. Si scrive il sito di destinazione e si vede tutti i percorsi che commette. Con Visual Route semplicemente c'è anche la visualizzazione geografica, per cui si vede proprio in quale stati si passa e dove transita il proprio flusso di traffico. Non c'è un'indipendenza statale e il traffico che transita è soggetto a leggi, per esempio, lo stato di transito, l'ho anticipato prima. Qui questa mappa qui fa vedere le rotte BGP. Le rotte BGP sono i core che servono per gestire i grandi flussi di traffico, che poi vengono divisi dalle centrali locali. Questi qui sono i link principali. E si vede ad esempio che se voglio riuscire a comunicare con Kiev devo passare per la parte dell'est Europa, non posso arrivare direttamente, di conseguenza soggetto a più legislazioni. La crittografia è il sistema idealmente più semplice per riuscire a proteggere questa cosa. Le due tipi di crittografia che indico sono la simmetrica e la asimmetrica. Quella che vedete qui è la simmetrica, che è la crittografia più intuitiva, quella che più idealmente potete avere in mente. Da un testo in chiaro, quindi un dato che voglio cifrare, che voglio proteggere, o una chiave o un algoritmo di cifratura utilizzandoli insieme genera un dato illeggibile. Solamente chi avrà la stessa chiave che ho io potrà, applicando al contrario la logaritmica di cifratura, quindi decifrando, riuscire a ottenere lo stesso dato precedente, il dato. Se ha una chiave diversa non otterrà quel dato. Spesso viene indicata con l'indice Bob che si trasmettono, e IV invece è l'inverse drop, è quello che controlla il traffico. Qual è il problema di questo sistema? Che per prima cosa, cioè, devo aver scambiato la password con l'altro, quindi può essere non intuitivamente facile. Se voglio comunicare con una persona che non ho mai visto di persona, non posso aver scambiato la password con lui. Questo sistema è solamente quello per spiegare che la crittografia esiste, ma quello che viene usato più in internet è la crittografia asimmetrica. La crittografia asimmetrica fa in modo che una persona genera una coppia di chiavi, una la pubblicherà e l'altra la terrà privata. Quella pubblica serve per cifrare, quella privata serve per decifrare. Quindi tutti quelli che vogliono comunicare con me possono avere la chiave pubblica, con questa qua potranno cifrare, solamente chi avrà la chiave privata potrà aprirla. E si chiama asimmetrica perché la chiave che chiude e la chiave che apre sono diverse. E questo consente di distribuire liberamente la prova pubblica e tenersi protetta la privata. Questo sistema qui è quello utilizzato anche dalle comunicazioni sicure via web come HTTPS, che vedete quando accedete a un sito sicuro, piuttosto che a quello del remote banking. Viene utilizzato anche comodamente per le mail, e qui suggerisco Thunderbird con il suo plugin Enigmail, che riesce in modo automatico, facilmente configurabile, a fare in modo che si manda una mail e questa mail può essere cifrata. Quando si ricevono delle mail si possono cifrare rapidamente, altrimenti si può sempre usare il programma NewBG, è un programma che implementa questo sistema di crittografia asimmetrica per cifrare file, trasferirsi, però richiede sempre uno sforzo manuale che a lungo può stancarti. Anche perché la sicurezza è una cosa che è bello fruirla, però non deve essere uno sbattimento. Mentre molto spesso si percepisce la sicurezza come un effort aggiuntivo, uno sforzo e un'attenzione o una palla al piede. L'esempio che avete con Windows Vista, che a me fa incazzare visceralmente, è quello che quando inserisci un nuovo programma ti escono tre finestre in cui ti oscura il sistema, ti fuori questa finestra e ti dice: ehi, stai eseguendo un programma. Minchia, lo so, ho cliccato io, ok, fammi eseguire questo programma. Ma questo programma sta facendo una cosa che è questo tipo di cosa. Sì, sto eseguendolo, sono utente, non sono in grado di capire che cosa sta facendo questo programma. Se ti ho detto eseguirlo, fidati, l'utente in questo modo sta vivendo la sicurezza come una frustrazione, come uno sforzo, qualcosa che inizierà in modo abitudinario a cliccare su ok, fai quello che devi fare, perché sono abituato a dire sempre ok, perché non ho gli elementi per capire se quello che mi stai chiedendo effettivamente è sicuro o insicuro, e quindi continua a dirti no. La sicurezza deve essere, dimmi, c'è un modo per tagliare? No, per questo motivo Windows può essere simile a un cancro. Ma puoi disabilitare però il controllo utente. Guarda, ti ammetto una cosa, io non uso Windows. Ah. Che si può togliere. Sì, e come si fa? È un po' lungo, però c'è modo di disabilitare il controllo utente. È un po' complicato. Devi entrare nel pannello di controllo e cercare. Io ho Windows Vista e ho tolto tutte queste cazzate che si fanno anche a me. Però vedi, cioè, il fatto è che sia una cosa difficile da togliere automaticamente preclude gli utenti che potranno farlo. Però è volutamente nascosto, infatti, il modo di togliere. Non è difficile, però te lo devi andare a cercare nei menu. Ecco. Non è che ti dice subito, vuoi toglierlo, fai così, no. Andate proprio a cercare. Infatti, se non vai a cercarlo, nessuno te lo dice. No. Per questo diffonde implicitamente anche una cultura della sicurezza basata sul fastidio. Sì. La crittografia quindi può essere un metodo matematico con la quale si assicura la riservatezza dei dati. Riservatezza è solamente che il destinatario sarà lui che lo leggerà, a patto di queste quattro condizioni importanti. A patto che l'altro comunicante supporti, cosa che è molto rilevante, perché finché comunico con una persona con una mail, piuttosto che dopo parlerò di Vanish, allora posso essere d'accordo con l'altra persona, lui ha la stessa mia consapevolezza o la mia stessa sensibilità in termini di riservatezza, usa il software. Se invece sto comunicando con un portale gratuito, come può essere Facebook, piuttosto che qualunque altro sito, questo sito potrebbe essere non supportarlo, la crittografia. Però io potrei sentirmi di comunicare informazioni sensibili che mi spiacerebbe che dovessero andare in mano a terze entità che non sono lettori di quel forum, piuttosto che degli iscritti con la mailing list. E questo tipo di limitazione effettivamente c'è, l'altro deve supportare la crittografia, per questo motivo deve essere possibile diffusa la consapevolezza, altrimenti. Ma così siete ancora il piccante del, dello spray al pepe. Vanish invece è un sistema che avevano sviluppato dei ricercatori di Washington, l'università, che vuole fare i primi dati in grado di autodistruggersi. Uno dei problemi che spesso è stato anche proposto una comunicazione sociale italiana, quella che se metti una foto online questa foto per sempre, piuttosto che comunque la mancanza di obbligo in internet, che spesso esiste in questo modo, quando fai qualcosa online questa cosa rimarrà perenne. È una cosa che da un certo punto di vista riguardo la trasparenza è un beneficio, riguardo invece il fatto che magari dei ragazzi giovani che stanno ancora formandosi scrivono minchiate che poi in futuro possono rimpiangere, questo qui può essere un problema. Sono due aspetti, cioè due risvolte se ne danno. Posso farti una domanda che non c'entra, ma è stupidissimo? Sì. Quando io cestino, sì, i dati che io cestino, dove vanno? Quando tu i cestini, non cambia nulla, se non che l'inode, cioè un dato che tu non vedi, ma il computer legge, dice questo dato qui non è più visibile su Persistent, se vuoi vagli pure sopra. Anzi no, questo dato qui non lo vedi su Persistent, è nel cestino. Quando vai nel cestino vedi tutti quelli marcati come nel cestino. O tu cancelli, il dato non va da nessuna parte. O tu cancelli, il segnatore di sono nel cestino sparisce, il dato rimane nel disco. Però, non avendo più il segnatore sono un file vero o sono nel cestino, quando il sistema ha bisogno di andare a scrivere può usare questo spazio. Per questo motivo però quando tu cancelli un dato questo dato in realtà non è sparito. Quindi finché non li scrivi sopra rimane. Non li scrivi sopra, esattamente. Esisteva uno studio fatto su hard disk vecchi, il metodo di Gutmann, che spiegava come è possibile recuperare dati cancellati. Dati cancellati li recuperate facilmente anche con una lettura, con dei tool per Linux, sono gratuiti e si possono scaricare. No, vabbè, se ti dedichi per due settimane vedrai che alla fine sarà fatto. 5. Due è usato la vita. Però Gutmann aveva fatto questo studio. Anche dopo che tu hai passato sopra al dato, può essere recuperato. Può essere recuperato perché i bit che il computer vede come 1-0, in verità sono l'equivalente di uno scalpello che incide sulle testine magnetiche. Quindi tiene dei livelli di magnetizzazione che sono una sfumatura. Questa sfumatura è quindi in grado di riuscire a cioè può essere compreso fino a, lui diceva con tecnologie molto molto sofisticate, fino a 34 volte che sono la scritta. Per questo motivo i sistemi di cancellazione sicura facevano questo. C'è il dato a cancellare, sovrascrivo con dati casuali, dopodiché sovrascrivo con degli zero, perché è veloce da fare, per 34 volte, e poi sovrascrivo ancora con dati casuali, e poi il file lo cancella. Quindi questo blocco di disco, sei sicuro che anche se uno ti prende il disco e va in camera bianca, fa questo tipo di analisi, non riuscirà a recuperare il dato. Conta che l'agenzia di investigazione Kroll, sul suo sito, dice proprio noi facciamo questo. Quindi c'è da tenere in considerazione il fatto che qualcuno possa trovare dei file cancellati e pagare degli analisti che mandano in America il loro disk da far analizzare in camera bianca. Si chiama la camera bianca, quella camera iperasettica in cui neanche un canale povero può aprire, può entrare, in cui il disco viene aperto e analizzato al laser. Se qualcuno teme di avere un nemico che possa arrivare a questo livello di potenza, beh, sorry, c'è poco da fare. Vanish, questo risponde alla tua domanda. Sì. Quindi quando va in cestino in realtà non cambia niente, perché se no, se già potesse essere solo scritto tu, dovresti ripristinarlo. Io pensavo appunto, se ho un disco rigido e qualcuno me lo prende, il mio disco rigido prende il mio computer e lo butto via, può controllare tutto quello che ho cestinato in vita mia. Sì, questo tipo di problema si chiama non invitatura. Dopo tu ogni tanto lo cancelli e poi ogni tanto il disco ti dice guarda che il disco è pieno, devi svuotare il cestino, per questo motivo. Se tu svuoti il cestino si libera spazio. Quindi non è che tutta la tua vita informatica possa essere costruita da un solo disco. Però tanta roba personale può essere trovata a un disco di 100 giga. e non solo, quello che viene chiamato infosmog sono l'inquinamento informativo, il fatto che la persona che non sta attenta, non consapevole, può lasciare in giro CD masterizzati, copie di backup, dischi da buttare, senza sapere dove andranno. Era, si vedeva spesso sempre passare sulla lista di Schneier dei post in cui spiegavano che avevano comprato da un venditore anonimo su eBay 10 iPhone. Questi 10 iPhone si scopre che in realtà erano sistemi usati di test da militari piuttosto che da AT&T. E quindi trovi magari dei progetti o dei software privati, militari o AT&T sull'iPhone che hai comprato, perché era stato cancellato ma non in modo sicuro. Piuttosto che i computer che venivano dismessi dalle svendite, cioè una società grande non si affida ai suoi personali IT, si affida a una società che gli smaltisce i computer, che so, la Olivetti, piuttosto, no, la Olivetti si affida a una società che smaltisce. Tu compri questi computer usati, guardi il disco e ti dentro dati privati della Olivetti, qualunque cosa ci sia dentro. Puoi anche sostituire il nome Olivetti con una qualunque tipo di banca. E questo è un problema, l'infosmog è una questione di cultura informatica che deve diffondersi, ma noi siamo una generazione che usa internet al massimo da 12 anni, 15 anni, 20 anni. E cioè, chi potrebbe essere sensibile potrebbe essere chi nasce in un ambiente in cui questa cultura viene spiegata e già insegnata a livello di scuola elementare, quindi perché è molto più là questo tipo di consapevolezza diffusa e consolidata. Vanish è un sistema che voleva fare i dati che si potessero autodistruggere. In realtà un dato non si può mai distruggere, perché nel momento in cui un dato multimediale viene replicato e tu lo vedi una volta, puoi potenzialmente copiare. Quindi anche il DRM, in cui si dice non ti consentiamo di copiare il file musicale, ma puoi solamente playarlo, in astratto sarebbe possibile che l'hacker dell'hardware, anziché doversi copiare il file usando un comando, si riesce a mettere con dei sondini dentro ai cavi musicali, registra la musica con una qualità perfetta, la acquisisce in MP3 e anche se c'è la DRM dentro al riproduttore di dati multimediali, tu puoi acquisire l'MP3, perché ogni volta che un dato viene visualizzato, realizzato, interpretato, potenzialmente può essere acquisito e riproposto. Vanish comunque vorrebbe evitare questo problema qui dei dati che non muoiono, e nei dati testuali, almeno hanno fatto un esperimento con Facebook, in cui tu puoi mandare un messaggio, lo clicchi sul tasto destro, dici rendilo che si distruggerà tra una settimana. Questo dato rimane è cifrato, la chiave risiede su un server dei proprietari di Vanish, comunque università. Chi lo apre, se la Vanish dice ok apri questo messaggio, il programma va a cercarsi la chiave che ha un tempo limitato, decifra il dato e riesce a leggerlo finché il server gli fornirà la chiave. La chiave smette di essere fornita quando raggiunge la scadenza, quindi il dato che è cifrato non sarà più leggibile. Volendo, se è realizzata la stessa sorta di mortalità del dato, autodistruzione del dato, perché tu hai impostato il momento dal quale in poi non sarà più accessibile. Nulla vieta però uno che lo apre, lo copia e incolla quando è decifrato e se lo salva decifrato. Comunque è già un livello di sicurezza interessante. L'ho messo qui sotto la frase a patto che l'altro comunicazione supporti, per dire, anche se l'altro è un server che non supporta crittografia come Facebook, ciò non preclude a me e a un'altra persona che vogliamo comunicare in modo riservato di poterlo fare passando su di lui. Un concetto che a me piace molto diffondere, ma purtroppo non è ancora radicato, è che tutti i servizi che danno tutti i servizi che danno accessi gratuiti, posta, ricerca, storage di libri piuttosto che social network, potenzialmente possono ospitare qualunque tipo di dato, quindi uno potrebbe utilizzarli come storage del proprio archivio di MP3 piuttosto che utilizzarli per farci altro. Questa cosa qui si chiama data squatting, se volete, lo squatting del data storage. Esisteva il Gmail FS, cioè un file system, un sistema per avere dei dischi, appoggiato a Gmail. Tu avevi un utente Gmail, avevi un disco virtuale, in realtà ogni volta che tu accedevi un file, avevi un programma che andava su Gmail, apriva una mail, scopriva il file in attacco equivalente e te lo faceva vedere. tu avevi dei dati sul tuo disco, quando in verità il tuo disco poteva essere molto piccolo, ma stavi usando tre account Gmail da 2 giga l'uno, e quindi 6 giga regati da Google in questo modo. Questo tipo di squatting è qualcosa che sarebbe bello se si diffondesse come, come cultura, perché sarebbe una sorta di inculatura a chi dà servizi gratuiti, perché gli utenti sono soddisfatti di usare il servizio senza pagarlo, senza sapere cosa stanno pagando con i loro dati. E niente, Vanish, questo è un esempio di questo data squatting. Facebook vuole profilarti i tuoi dati, ma tu scrivi cifrati, li metti nel culo e in più stai usando. A patto che abbiate considerato correttamente il modello di minacce. Questa qui è un intervento di Marco Canamari, quello che tiene su Punto Informatico la rubrica Cassandra Crossing. Nel 2003, in questa conferenza di privacy, aveva parlato di l'infosmog, quello che ho citato prima sui dati che perdi. Parlava anche di un altro aspetto importante, che è il modello di minaccia. Ovvero, ogni volta che una persona deve impostare il proprio livello di difesa, di attenzione, di cura su quanto cifrare, come conservare i dati, ogni quanto fare backup, se fare backup cifrati o no, perché è sufficiente che te li metti nel tuo cassetto e nessuno verrà mai a questo cassetto. Bisogna fare un'analisi sul proprio modello di minaccia. Sono genericamente tre. La persona non skillata, quindi, che so, il figlio, il professore, la moglie, eccetera. Il professionista, quello pagato perché deve rubarti i dati per fare spionaggio, o militari, entità statali o cose comunque possono accedere a a delle risorse molto più forti di quelle a cui può accedere un civile. Il modello di minaccia serve apposta per essere coerenti nella propria definizione del modello di sicurezza. Cioè, se io non ha senso che io cifro in un algoritmo indecifrabile quando poi scrivo la password su post-it attaccare al monitor. Questo qui è un tipo di incoerenza di sicurezza. A patto che l'implementazione non sia una trappola. È successo all'inizio di non mi ricordo quando, che Maroni, come ministro dell'interno italiano, si era incazzato e aveva fatto qualcosa con gli altri ministri dell'interno per riuscire a intercettare Skype. C'era questa cosa che era uscita perché Skype non consentiva intercettazione. Skype è una rete chiusa in cui il binario stesso è cifrato, il traffico è cifrato, e potenzialmente chi comunica, chi telefona, non viene intercettato, perché già di suo il software è distribuito per superare anche i filtri che ci possono essere davanti. È stronzo da questo punto di vista, ed è bello in che senso. Qual è il punto? Skype cifra, ma non in un modo sicuro come potrebbe essere l'utilizzo di GPG. Cifra con le chiavi crittografiche impostate di Skype, quindi Skype può decifrarla. Quindi si sta affidando un'implementazione cifrata che in verità ci dà la sensazione che non siamo intercettabili, perché è cifrata. Deve essere cifrata nel modo corretto, perché altrimenti se Skype può intercettarla e Skype, perché ha pressioni legali e politiche, deve iniziare ad aprirsi, significa automaticamente che chi può accedere alle chiavi di Skype riesce a scardinare la riservatezza che altrimenti noi ci pensiamo di aver ottenuto. A patto di aver dato la sicurezza all'ora della macchina. Questo articolo qui diceva che Skype si poteva intercettare, in verità l'aspetto è la sicurezza della macchina è l'interfaccia che traduce quello che arriva cifrato protetto a te. Se la tua macchina è violata o se la tua stanza è violata perché c'è un microspia o perché c'è qualcuno che ti ascolta dall'altra parte del muro, piuttosto che c'è un Trojan sulla tua macchina che ascolta quello che succede dal microfono o quello che digiti, non conta quanto tu stai cifrando, perché questa interfaccia è come una persona invisibile che sta seguendo quello che tu stai facendo e lo sta ricordando per sempre. Questo articolo qui parlava del fatto che Skype si può intercettare, invece no, qualunque cosa che avviene su una macchina può essere intercettata se c'è un Trojan. 8 su 8. Internet è abbastanza su protocolli aperti, come avevo anticipato prima, e questa è la sua forza, perché chiunque da ogni parte del mondo può creare un software sapendo che questo comunicherà all'interno di questa rete. L'intercettazione del traffico invece richiede di sapere come si deve ricostruire il traffico, cioè sto girando il traffico, però devo capire che è un traffico web e quindi posso ricostruirlo. Poi dentro il web potrò trovarci JavaScript, quindi l'ho ricostruito, ma non sto ancora capendo cosa è successo, devo, che so, interpretare JavaScript quindi si vede che man mano che si va avanti con le tecnologie o si incapsula all'interno di un solo dato molta più roba, diventa più difficile accedermi, ad esempio un altro modo. Una mail in testo può essere intercettata rapidamente, la si vede transitare come dei byte che passano in rete con il significato della vostra mail. Se invece voi scrivete in una mail in HTML, già può essere più difficile. Se invece scrivete su un documento PDF e lo mettete in allegato e passate in una mail, diventa ancora più difficile. Chi intercetta deve salvarsi tutto, scaricare, ricostruire l'allegato, aprirsi l'allegato e da rileggerlo. Sono già più passaggi. Siccome chiunque può sviluppare il software che vuole, io posso sviluppare un software che fa un sistema di comunicazione differente che non è mai esistito, vuol dire che automaticamente potenzialmente chiunque potrebbe farlo, e quindi chi intercetta il traffico potrebbe trovarsi davanti a qualcosa che non sa riconoscere. Questo può sembrare una contromisura banale, ma è già sufficiente per scardinare lo stato di diritto, perché si crea automaticamente due categorie: i cittadini consapevoli di questa cosa di serie A e quelli che non se ne fregano di serie B, quelli che hanno la paranoia, hanno la cura, hanno attenzione, hanno il pericolo, la paura di essere intercettati, possono tranquillamente proteggersi perché internet lo prevede che sia possibile, che chiunque possa cambiare software e cambiare sistema di comunicazione e dare e comunque funzionare come l'ha visto. I cittadini di serie B sono quelli che invece non si curano di questa cosa, possono essere intercettati e continuano a non saperlo perché pensano che non sia importante e non avere nulla da nascondere. Magari non sono capaci, semplicemente. Per questo motivo parlo pubblico. Ci sarà un corso di ne ho già fatto uno l'anno scorso, è difficilissimo. Vedi, questo qui è la difficoltà della sicurezza, è un problema da superare. Però è difficile davvero. Una cosa che frega a noi della community gratuita è che a differenza di chi sviluppa software per lavoro tipo Skype, software cifrato che installi con due click e c'hai telefonate cifrate con file sharing, cioè con condivisione di file cifrata, per uno che invece sviluppa le cose nel tempo libero a casa magari ha la sensibilità di fare la cosa davvero sicura, ma poi non ha la competenza di fare l'ergonomia, l'usabilità del software, la documentazione, la diffusione corretta. Ha l'etica e la moralità di farlo per Linux perché lo fa solamente software libero, ma poi non ha la malizia di farlo per Windows che prende il 95% degli utenti. Quindi sono dei compromessi che il fatto che una comunità autogestita e libera come la community dell'hacking, del software libero, e si trova a impattare rispetto a chi invece sviluppa software professionalmente, lo fa ad una qualità di usabilità superiore, anche se quello magari professionale del vendor non te l'ha subito di sicurezza. Quello che tu hai subito è stato questo. Ma io per esempio spesso non uso OpenOffice perché poi non riesco a leggere le cose in giro, c'è un casino, è talmente un pasticcio per me che uso quello di Windows e faccio la metà della fatica. Non sei la prima che dice questo. No, mi spiace, però no. È vero, cioè, se devo litigare col computer ogni volta per aprire un documento di testo, lo faccio in Windows e risolvo il problema. No, ma l'usabilità del software di sicurezza o dei software alternativi è la chiave che manca. Cioè, se esistesse un l'equivalente di Facebook o di Gmail fatto dalla comunità open source, tutti userebbero, però non esiste perché è difficile farlo. Certo, abbiamo avuto un problema che ci è stato insegnato già a scuola un certo modo di a usare Word e a usare è vero, quindi c'è un problema. Sì, sì, quella lì è la strategia di Microsoft che fa sconti speciali alle scuole, chissà come mai. È molto simile alla chiesa romana, raccoglie quando sono piccoli e insegnagli a usare solamente la nostra religione o la nostra, il nostro formato proprietario. Ma diventa anche un problema di lingua, perché quando si dice voglio scrivere qualcosa al video terminale, si dice io scrivo in Word. Sì. Ci sono moltissimi altri programmi che permettono di fare quello che fa Word. Un invece è un altro aspetto che mi è piaciuto analizzare, perché in qualche modo mi è sembrato che la cultura informatica non la fa lo studio di informatica, ma la fanno i software. Che so, il NAT è qualcosa che un sistemista o un amministratore di rete conosce, però adesso molti utenti la conoscono perché Emule o BitTorrent funzionano con l'ID alta, quindi maggiore priorità se non sei dentro NAT o se tu riesci a supportare il bypass del NAT con il BNP. Quindi il fatto che la cultura stessa della informatica venga diffusa dai software è segno del fatto che a meno di scarto qualcosa gli utenti imparano. E per questo motivo, parlandone con Baku, ipotizziamo che se dovessimo fare qualche software che vuole riuscire a spiegare anche le cose nuove, quello che sarebbe da fare, anche se non so come potrebbe essere fruibile, sarebbe che quando fai una checkbox non sintetizzi al massimo, piuttosto ti dilunghi una spiegazione, metti magari 2 righe di spiegazione, 2 righe uno lo legge, 4 no, ma 2 righe sì. E quindi ipotizzavamo dei software che possono sembrare verbose al primo utilizzo, però ti insegnano un pochino di più di quello che può fare al massimo una frase o una sigla con una checkbox di fianco. E niente, comunque questo aspetto qui del fatto che chiunque voglia proteggersi online e possa farlo, quell'argomentazione che avevo usato anche col garante della privacy, però lui da muro di gomma non aveva dato risposta di essere interessato a essere colpito da queste cose. Intercettazione e attacco finale, beh, questo qui è un po' una pista personale. SniffJock è un software che avevo scritto, serve per confondere il traffico che transita online. Uno sniffer che sta intercettando il traffico deve comunque riuscire a ricostruirlo, deve analizzare la sequenza di pacchetti che è transitata e da lì tirarli fuori il senso. Come dicevo prima con le mail, prima si costruisce le mail, poi se un attaccio li prende, devi riuscire a integrarli tutti. Come spiega l'immagine, probabilmente la comunicazione è con Alice e Bob che si parlano e Eve, l'Eve's Dropper, che legge i dati in modo passivo e invisibile. Con SniffJock inietta dei pacchetti anomali ma legittimi. Gli sniffer, per come sono fatti, non possono capire se il pacchetto legittimo, cioè è di SniffJock o del flusso reale, e per questo motivo riescono più a ricostruire i flussi, impazziscono la ricostruzione. Bob invece è quello che sta ricevendo la comunicazione, siccome i sistemi operativi hanno dei metodi per riuscire a riconoscere se questi pacchetti sono coerenti o saltati durante la connessione, può scartarli. Ora, a voi può anche sovvenire il dubbio se può farlo Bob, può farlo anche Eve, e invece no, perché ci ho messo 8 anni per implementarlo, è sarebbe difficile spiegarlo adesso. No, ho fatto un talk su SniffJock, ma dura un'ora e sarebbe sulla fiducia, fidate, oppure usatelo, anzi trasparente vuol dire che in modo trasparente si interviene quello che fate, non bisogna patchare, mettere plugin per Firefox o per Thunderbird, è un software che gira a parte e man mano che usate internet lui in modo automatico inietta. Libero, i software che devono dare delle finalità di sicurezza devono essere software libero, altrimenti tu stai fidando, come si fa di Skype, di qualcosa di cui non sai veramente come funziona, potrebbe metterlo nel culo. Gli algoritmi di crittografia seri e quelli certificati come standard accettati vengono analizzati per anni da ricercatori di matematica e crittografia, proprio perché sono pubblici, allora tutta la comunità può attaccarli. Modo direzionale, e questa qui è la sua feature più atipica, il fatto che non deve averlo l'altro. Se l'altro elemento deve normalmente avere il programma di crittografia per decifrare, in questo caso invece il sistema operativo con tutti gli altri, un server, un client, tu inietti i dati in questo traffico, questa sessione TCP iniettata non sarà costruibile, l'altro li scarterà perché il sistema operativo riesce a farlo, mentre lo sniffer non ha le stesse informazioni che l'altro. E basta, questo è SniffJock. Da sniffer massivi, perché in linea teorica, se una persona si prende la connessione che è stata intercettata e si guarda pacchetto per pacchetto, può l'umano intuitivamente capire cosa è legittimo e cosa non lo è. Non si può implementare in software perché ci sono delle assunzioni che non possono essere in modo discreto tradotte, e quindi un software non può, con una certezza matematica come invece dovrebbe essere, capire se un pacchetto è buono o non buono. Un umano invece può a occhio provare più combinazioni e da lì riuscire a capire il significato della connessione. Per questo motivo la protezione di SniffJock è da sniffer massivi, che so, il Trojan che sta sniffando sulla rete dell'ufficio, piuttosto che lo sniffer messo dal provider. Crittografia RIPA. Il RIPA 3, il RIPA è una serie di leggi anche lì per la sicurezza diffuse in Inghilterra dopo l'11 settembre. I primi 2 pezzi, RIPA 1 e RIPA 2, sono entrati in vigore a distanza di 6 mesi dall'altro. Nel 2007 invece il RIPA 3 è uscito. Il target è l'attacco sono i dati che un cittadino cerca di proteggere, quindi i dati che uno ha cifrato. Cosa di nuovo? che il fatto stesso che tu abbia protetto una cosa può essere che tu stia tenendo nascosto qualcosa allo Stato e quindi lo Stato ti obbliga a dargli la password, e se non gliela dai lui ti mette in galera per 2 anni. Questo dal punto di vista della sicurezza può sembrare una cosa semplicemente liberticida, ma è ancora peggio, perché se qualcuno può avere delle, in qualche modo, delle prove che lo incriminano per una quantità maggiore di anni di 2, non rivelando la password si fa massimo 2 anni. Se invece qualcuno effettivamente è innocente, non rivelando la password si fa 2 anni, di conseguenza la rivela. Però in questo modo la protezione che ci può essere tra i dati di un medico o di un banchiere o di chiunque altro che ha importanza a tenere i suoi dati protetti va a perdersi. Niente, cioè dire che il rischio che si temeva è che queste leggi qui, siccome sono generalistiche, potesse essere usato per motivazioni diverse al terrorismo, e infatti la prima volta che è stata usata contro degli attivisti animalisti. Ah sì, che è il della triste roba. Comunque, questa legge di RIPA 3 ha scaturito un po' di cose, tra cui l'articolo su FRAC, la zine, il magazine più autorevole della storia dell'hacking, al numero 65, in cui veniva pubblicato questo articolo, in cui spiegava che le uniche leggi dentro internet sono le RFC, quindi i protocolli di comunicazione, e l'assembly, cioè il linguaggio di programmazione base della macchina. Spiegando un po' quello che ho raccontato anch'io, cioè se una tecnologia può essere utilizzata, può essere utilizzata in modo imprevisto, tu puoi prevederne una che hai visto, conosci, però quello che conta è che la tecnologia potrà evolvere, mentre tu sistema burocratico e sistema gerarchico istituzionale avrai una lentezza maggiore per aggiornarti, quindi la rete potrà aggiornarsi in modo più rapido, tu sarai sempre più indietro. Il software di Plausible Deniability Elettra è un software che riesce a cifrare più file in un blocco solo. A seconda della password che tu inserisci, lui ti decifrerà un file. Dal punto di vista matematico non è possibile riuscire a capire se ci sono più archivi, quanti archivi, 1, 2, 3, n. Non è possibile capire quanto sono grandi i file all'interno, e è plausibile che un file anche da 1k riesca a generare un file da 10 mega. Ovviamente ci sono dei marchingegni per cui nessuno può proteggersi un dato, questo avrà uno spazio utilizzato in questo modo selvaggio. È semplicemente tutto basato sulla plausibilità. È tutto plausibile dal punto di vista matematico che la password che ti ho rivelato è quella giusta ed è l'unica che c'è, e il dato che hai dato fuori è plausibile e matematicamente coerente con quello che c'era in input. È quindi una sorta di escamotage matematico a una legge come assunzione il fatto che se c'è una password c'è un dato protetto. No, ci sono n password e ci sono n dati protetti. Hai fatto l'assunzione cercando di metterlo nel culo, però il software, come sempre, è l'unica legge. La steganografia è invece il sistema di, non come la crittografia rende i dati illeggibili, ma è evidente che sono leggibili. La steganografia vuol rendere i dati invisibili, quindi all'interno di un traffico di MP3 piuttosto che di JPEG, piuttosto che di file video, può essere che altri dati siano nascosti e non sia visibile a occhio nudo né a un'analisi di una. La steganografia appunto può essere vista come contromisura, perché se un inglese che sta facendo questo tipo di indagine ti obbliga a dare una password se sa che c'è del dato cifrato, ma se trova degli archivi MP3 pensa che sono file musicali, perché ascoltando gli è davvero musica e anche coerente con quello che c'è dentro. Non dissimile questo tipo di problema con le leggi che sono uscite di recente in America, e per cui se tu passi una frontiera con un computer loro possono sequestrartelo, non sequestrartelo per non redartelo, sequestrartelo per riuscire a vedere i dati, perché anche le informazioni che transitano possono essere qualcosa di rilevante per la sicurezza statale. Ricorda molto Blade Runner, quando il programmatore passa vicino a un controllo e dicono ma sembra che lei ha un software non registrato. Sì, io sono programmatore, sviluppo software, quindi è normale. Ah, ok. E niente. Questo tipo di protezione e di negazione plausibile riesce a MP3? Sì. Una volta ho scaricato un po' di musica di un cantante italiano per portarla da mia madre, quella con la chiavetta nella televisione, e uno era un porno, era tutto musica, e poi uno video, e tutto. E quello lì è un effetto alternativo che è dovuto alla... è un effetto collaterale della distribuzione totale. Cioè la rete distribuita fa in modo che tu puoi collegarti a chiunque, però questo chiunque potrebbe essere anche qualcuno che ti sta fregando. Quello che bisogna riuscire a fare a regime di questa crescita è tu puoi accedere a chiunque, però devi riuscire a fidarti, perché tu e i tuoi amici li sono fidati e non hai conosciuto, piuttosto che hai modo di fidarti e quindi lo fai, oppure se non ti stai fidando tu possa in qualche modo scremare, vedere le possibilità di quello che sta scaricando. In modo pratico c'è stata la soluzione di mettere i commenti negativi, positivi. Si vede che tu nessuno l'ha commentato e ti ho dato sorpresa. Però no, quella è una steganografia. La steganografia è che tu c'hai una canzone, steganografia entro un dato e c'è la stessa canzone dopo. Stavo dimenticando TrueCrypt, una software che serve per cifrare i dischi, che ha dei dischi cifrati, può anche creare dischi cifrati invisibili. Quindi aprendone uno, può essere che dentro ci siano degli altri, però dal punto di vista dell'analisi del disco gli altri dischi sono praticamente invisibili, quindi è sempre negabile, ci sono più dischi cifrati oltre che prima. Io prenderei una birra per bere un attimo, se non vi dispiace aspettate un secondo.